Buongiorno di Simone Spezia. 5 Stelle, il sindaco di Parma Pizzarotti lascia, non sono cambiato io ma loro, dice sul referendum, i no in vantaggio, ma la metà degli italiani non ha deciso. Deboli consumi e propensione al risparmio in crescita, dice l'Istat, la crescita acquisita per il 2016 rivista al ribasso allo 0,6%. Referendum in Ungheria contro le quote ai migranti, niente quorum, mentre oggi a Lampedusa si ricordano le vittime del naufragio. La Colombia respinge con il voto popolare l'accordo di pace con le FARC, ma il cessate il fuoco è definitivo, dice il presidente, e i guerriglieri confermano. Il Nobel per la medicina va allo scienziato giapponese Hosumi, scoprì l'autofagia con la quale le cellule riciclano le sostanze di scarto. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, i nostri contatti, effettogiorno@radio24.it, se volete scriverci un'email oppure 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp. In apertura dunque la politica che oggi si muove su due fronti, da una parte il confronto sul referendum e sulla legge elettorale, dall'altra le tensioni nei 5 Stelle che oggi sfociano nell'addio di Federico Pizzarotti. Iniziamo da qua. Sono sempre stato un uomo libero, sono sempre stato una persona che ha guardato in faccia le proprie responsabilità e da uomo libero io non posso che uscire da questo Movimento 5 Stelle, da quello che è diventato oggi. Federico Pizzarotti, sindaco di Parma, dice così addio al Movimento 5 Stelle. La decisione arriva 140 giorni dopo l'annunciata sospensione dal Movimento a seguito dell'iscrizione del sindaco di Parma nel registro degli indagati per abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta per le nomine sul Teatro Reggio. Inchiesta ora archiviata. Pizzarotti esce dal Movimento 5 Stelle. Stelle perché, accusa, non è più quello di quando è nato. Non sono cambiato io, ma il Movimento che decide tutto nelle stanze segrete. Nel Movimento non ci sono norme ad personam, replica il deputato pentastellato Fico in merito alla sospensione di Pizzarotti. Beppe Grillo intanto arriva a Roma per un incontro con Davide Casaleggio e attacca l'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, reo di trascinare l'Italia sul baratro con il sì al referendum costituzionale. A Roma non si placano le polemiche sulla giunta Raggi con l'assessore all'ambiente sotto assedio per l'inchiesta sui rifiuti, mentre il neoassessore Massimo Colomban, scelto da Raggi per riorganizzare le aziende comunali, è già al lavoro e arriverà domani a Roma per l'insediamento. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore Roma. Altro tema in primo piano, come si diceva, il referendum e l'Italicum. Elisabetta Fiorito per un punto. Elisabetta, buongiorno. Sì, buongiorno. Matteo Renzi ci ripensa. Simone, dopo l'annuncio in TV, si dice pronto a cambiare la legge elettorale, ma il PD non presenterà una sua proposta di riforma. Per me l'Italicum è un'ottima legge, dice il Premier, ma se tutti pensano di riaprire il tema, il PD è pronto ad andare a vedere le carte e a confrontarci, non a presentare un'altra proposta che potrebbe essere osteggiata dalle altre forze politiche. Renzi poi ribadisce. Dice: io non faccio una nuova legge, non decido io, è una scelta del Parlamento. Ma la legge elettorale è meno importante della riforma e se serve cambiarla si cambia. Il Premier poi commenta anche i sondaggi. Secondo il Corriere della Sera i no sarebbero in vantaggio con il 52%. Renzi però è convinto che tutto sia aperto perché il 50% degli italiani non ha ancora deciso cosa votare. Nel momento in cui si avvicinerà il voto crescerà l'attenzione, dice il Premier. E sui contenuti della riforma precisa di nuovo: non è stravolta perché la maggioranza degli articoli riguarda il titolo quinto fatto da Massimo D'Alema e non dai partigiani. A te Simone. Grazie dunque ad Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento. Sono di oggi nuovi dati Istat sulla situazione economica del paese. Due segnali incoraggianti arrivano da dati pubblicati oggi dall'Istat. Sul fronte dei conti pubblici migliora il rapporto tra deficit e PIL. Nel secondo trimestre 2016 arriva allo 0,2%, in miglioramento di 0,7 punti su base annua, il livello migliore da 10 anni a questa parte. Sul fronte dell'economia reale, buone notizie per quanto riguarda il potere d'acquisto delle famiglie, che nel secondo trimestre 2016 aumenta dell'1,1% sul trimestre precedente, del 2,9% su base annua, il dato migliore dal 2007. Contribuisce a questo risultato l'andamento dei prezzi e la pressione fiscale in calo di 0,4 punti percentuali in un anno. Aumenta dunque il reddito disponibile, ma non aumentano con lo stesso ritmo i consumi, che restano al palo. Le famiglie, insomma, più che spendere preferiscono mettere i soldi da parte, tant'è che la propensione al risparmio è al 9,6%, ai massimi dal 2010, anche perché il futuro sembra tutt'altro che roseo. La ripresa resta fragile e l'Istat oggi rivede al ribasso nostri conti economici trimestrali. La variazione acquisita del PIL per il 2016 è pari al più 0,6 rispetto allo 0,7 comunicato all'inizio dello scorso settembre. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Ci spostiamo in Ungheria adesso per il dopo referendum. Il giorno dopo il referendum ungherese che non ha raggiunto il quorum, a Budapest nessuno festeggia. Non i promotori del sì, che praticamente non esistono e comunque sono arrivati al 2%. Non i sostenitori dell'astensione, come il partito satirico del cane a due code, che con il 98% dei voti validi per il no, sono stati comunque sconfitti. Non il premier Orban, che ha perso ufficialmente, in realtà però è forte dell'appoggio di un elettore su tre. Bruxelles dovrà tenerne conto, ha sostenuto, annunciando una modifica costituzionale che proporrà lui stesso nelle prossime ore. Se Budapest piange, Bruxelles non ride. Il rifiuto di accogliere un numero esiguo di profughi, si parla di 1.300 persone, viene considerato uno schiaffo per l'Unione Europea. Per i collocamenti decisi sono legge e devono essere rispettati, ha detto stamattina il portavoce della Commissione Margaritis Schinas. Intanto Amnesty International denuncia la situazione che vivono i migranti in Ungheria. Abbiamo documentato casi precisi di violenza, dice Aaron Demeter. Accade al confine ma anche nei centri di accoglienza, dove operano anche cacciatori di migranti che agiscono per conto del governo. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Questo è il quadro dunque dall'Ungheria, dove, come si diceva, si è votato sulle quote di migranti stabilite dall'Unione Europea. E oggi è la prima giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. A Lampedusa si svolge la commemorazione per l'anniversario della tragedia del 3 ottobre del 2013. Un corteo silenzioso per ricordare le 386 vittime del naufragio di 3 anni fa. Sugli striscioni la scritta: chiediamo che i corpi dei nostri familiari vengano riportati a casa. Sono i sopravvissuti alla strage del 3 ottobre 2013. Ora vivono nel nord Europa, ma tornano a Lampedusa per non dimenticare. Insieme a loro, nella prima giornata nazionale della memoria, sfilano più di 200 studenti provenienti da tutta Europa e gli abitanti dell'isola. La commemorazione di un giorno terribile di cui non si deve perdere la memoria, ci spiega il sindaco Giusy Nicolini. Lampedusa non è la periferia dell'Europa, ma è la porta d'ingresso. Da qui deve partire un ragionamento completamente capovolto rispetto al diritto d'asilo, alle politiche migratorie. Alla porta d'Europa il monumento in ricordo dei migranti, la commemorazione delle vittime alla presenza del ministro Alfano, poi la deposizione della corona di fiori in mare, e mentre si svolgono le celebrazioni sono in corso decine di operazioni di soccorso. In 3 anni, ricordiamo, sono più di 11.000 i profughi morti nel Mediterraneo. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il Nobel per la medicina 2016 è stato assegnato al giapponese Yoshinori Ozumi per la scoperta del meccanismo dell'autofagia, quel meccanismo con il quale le cellule riciclano le sostanze di scarto. Sentiamo come spiega questo Nobel e le ricerche appunto di questo giapponese Adriana Albini, che è il direttore scientifico della Fondazione Multimedica Onlus, ma anche una delle principali ricercatrici italiane in campo oncologico. È intervenuta questa mattina da ospite di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani in Cuore e Denari. L'autofagia è una, diciamo, disciplina molto di moda, nel senso che negli ultimi anni tanti ricercatori se ne sono occupati. La parola stessa dice mangiare se stessi, è un meccanismo per cui la cellula, quando ha una carenza diciamo di energia o mancano il nutrimento intorno, si mangia un po' da sola, consuma delle sue parti e quindi in qualche modo sopravvive. E quindi questo è importante, per esempio, non so, per la rigenerazione del muscolo, eccetera. Chiaramente invece è un meccanismo negativo quando avviene nei tumori, perché se noi cerchiamo di ammazzare, affamare un tumore, questo sopravvive perché si mangia se stesso e dopo riparte, e quindi ha una doppia faccia, no? Buona e cattiva. Quando una cellula ha fame, mangia un pochino se stessa, ed è legato anche a quelli che sono i sensori dell'appetito e dell'energia, quindi ha aperto il grande campo del metabolismo metabolismo, su cui si lavora moltissimo. Se voi andate sul sito delle pubblicazioni PubMed, per esempio, e cercate autofagia o autofagi, trovate migliaia di lavori. Quindi è stato veramente un riconoscimento importante per questo fenomeno di mantenersi in vita consumando le proprie energie interiori. È qualcosa che ha sempre permesso in passato, diciamo, agli organismi anche superiori di sopravvivere ai periodi di carestia. Così dunque Adriana Albini, direttore scientifico della Fondazione Multimedica Onlus, intervenuta a Cuore e Denari per raccontare il senso di questo Nobel per la medicina arrivato oggi. Qualche notizia di cronaca a partire da uno degli ultimi minuti che arriva dalla Guardia di Finanza di Milano e riguarda un'indagine per corruzione. La Guardia di Finanza di Milano sta eseguendo 14 arresti, tra cui quelli di un dirigente di una società controllata da Ferrovie Nord, il tutto nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla DDA di Milano, con al centro l'acquisizione di subappalti di opere pubbliche in Lombardia. Tra le commesse anche quella relativa alla linea ferroviaria che collega il Terminal 1 al Terminal 2 di Malpensa. Tra i reati, l'associazione per delinquere finalizzata alla corruzione. E una buona notizia: i carabinieri hanno recuperato 8 dei 10 PC portatili che erano stati rubati dalla scuola media di Acquasanta Terme, l'unica agibile dopo il terremoto del 24 agosto. Sono state due le persone denunciate. Del furto aveva parlato anche il Presidente della Repubblica Mattarella, lo aveva definito un'offesa all'Italia. Ed è stato smantellato oggi un giro da 600.000 euro di patenti false tra Veneto e Lombardia. All'alba la Polizia Stradale di Treviso ha fatto scattare un'operazione contro un giro di patenti false. 10 persone sono state arrestate tra Veneto e Lombardia. Gli investigatori hanno scoperto un'organizzazione che da anni operava nel Trevigiano per far superare in modo fraudolento l'esame di teoria a candidati disposti a pagare tra i 2.000 e i 3.000 euro. La polizia ha individuato e denunciato diversi cittadini, prevalentemente di origine indo-pakistana, che hanno conseguito la patente con questa truffa. I candidati erano avvicinati nelle autoscuole, di proprietà degli stessi truffatori, e il giorno dell'esame ricevevano dei sistemi audio-video attraverso cui i membri dell'organizzazione fornivano loro le risposte corrette ai test. Andrea Siravo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo al calcio per un punto dopo il fine settimana di campionato. Giovanni Capuano, ciao. Sì, ciao. Beh, la domenica ha lanciato la prima fuga di questa stagione e, manco a dirlo, è una fuga della Juventus che va alla sosta con 4 punti di vantaggio sul Napoli, 5 su Roma, Lazio, Milan e addirittura 7 sull'Inter. Le altre sono più lontane a partire dalla Fiorentina. Sono tantissimi punti, considerati che siamo solo alla 7ª giornata e che la squadra di Allegri, per giudizio di tutti, non è ancora capace di esprimere il miglior calcio. A far discutere però questa mattina non è tanto la consapevolezza che la Juve sia più forte di tutte le altre, quanto le parole dell'allenatore del Napoli, Maurizio Sarri, che ieri, dopo aver incassato una brutta sconfitta a Bergamo, ha detto apertamente che il campionato è già finito, che la Juve è di un'altra categoria e che il Napoli non ha mai pensato di poterla contrastare. Una resa incondizionata che oggi divide critica e tifosi, perché è vero che la rosa di Allegri è straordinaria, ma anche quella a disposizione di Sarri non è male, e soprattutto non più tardi di 10 giorni fa il presidente De Laurentiis aveva ricordato al tecnico di aver investito 128 milioni di euro e per mettergli a disposizione una squadra che riteneva competitiva. Insomma, il fuoco sotto la cenere continua a covare. Ora ci saranno 2 settimane di tempo per riflettere, visto che si entra nella sosta per le nazionali, quella che sarà nobilitata dalla sfida tra Italia e Spagna. Poi alla ripresa ci saranno Juventus Udinese e Napoli-Roma e ci sarà dunque un turno che certamente non è sulla carta sfavorevole a un'ipotesi di ulteriore fuga dei bianconeri. Vedremo dunque che cosa succederà e ovviamente tutto questo è ottimo materiale per tutti i convocati a partire dalle 14, nel quale ritroveremo il nostro Giovanni Capuano. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi iniziamo come sempre il nostro giro per l'Italia. Beh, inizieremo parlando di rifiuti. Perché? Perché forse nel fine settimana qualcuno di voi l'ha sentito in Si può fare, il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, che ha deciso di esporre al pubblico ludibri con gigantografie sparse per il paese, quelli che buttano di Olbia, che buttano i rifiuti dove non devono buttarli. C'è chi in Sardegna, prendendo spunto da questo, si è inventato anche altro, e c'è un sindaco che sta pensando ad una taglia. Parliamo con lui tra poco. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Effetto Giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato delle nuove tensioni all'interno del Movimento 5 Stelle con Federico Pizzarotti, che ha deciso di lasciare. Non sono cambiato io, ma è cambiato il movimento. Dice, tra l'altro, si apprende in questi ultimi minuti che sia Grillo che Davide Casaleggio dovrebbero essere a Roma nella giornata di oggi per incontrare i vertici e i coordinatori del movimento. Abbiamo parlato dei dati Istat con i consumi deboli, la propensione al risparmio in crescita e una crescita acquisita per il 2016 rivista al ribasso allo 0,6%. Abbiamo parlato del referendum in Ungheria contro le quote migranti e del ricordo a Lampedusa del naufragio di 3 anni fa. Abbiamo parlato del Nobel per la medicina e adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e iniziamo da Sorso in provincia di Sassari. Siamo in linea con il sindaco Giuseppe Morgan. Buongiorno sindaco, benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Allora, noi abbiamo ospitato, si può fare sabato mattina, il sindaco di Olbia che ha deciso, come raccontavamo poco fa, per questa specie di gogna nei confronti di chi butta i sacchetti della spazzatura in giro, cioè gli vengono fatte delle foto, vengono ingrandite e viene mandato in giro un camion con le foto di questi cittadini di Olbia che buttano la spazzatura dove non dovrebbero. Lei addirittura starebbe pensando a una taglia, ho capito bene? Vabbè, non proprio taglia, credo che sia un termine improprio. Io ad una premialità, direi, al contrario, per diciamo i cittadini virtuosi, sia che fanno bene la raccolta differenziata, sia che fanno segnalazioni e indicazioni per quelli che invece non la rispettano. Quindi dare la possibilità anche di una riduzione sul costo della Tari per tutti quei cittadini che aiutano noi, ma aiutano loro stessi, aiutano il territorio a rimanere pulito. Ma lei, sindaco, ma lei come se la immagina? Se, in un comune come il suo di 15.000 abitanti, se lo immagina, sì, quello che dice, che telefona al comune e dice: guardi, il mio vicino ha buttato la spazzatura dove non doveva. Ma è chiaro che così non è fattibile né percorribile. Allora, tutto nasce da una valutazione che abbiamo fatto. Noi siamo partiti con la nostra amministrazione, ci siamo trovati con un 4% al nostro arrivo di differenziata, siamo arrivati a oltre 80% sul centro abitato. Quindi significa che i cittadini di Sorso sono dei cittadini virtuosi e che fanno bene la raccolta e hanno rispetto per l'ambiente. Il problema è sul territorio. Il territorio è molto vasto, abbiamo 16 chilometri di costa, è chiaro che è difficile da controllare e monitorare, non ci sono risorse, non ci sono persone. Sindaco, mi scusi, soprattutto d'estate immagino che il problema si presenta. Soprattutto d'estate, perché noi puliamo, facciamo la pulizia delle spiagge quotidianamente, come delle strade, non soltanto le strade comunali, ma anche quelle provinciali e statali. È chiaro che però questo non è sufficiente perché purtroppo è un territorio di passaggio, nella nostra costa si riversano non soltanto i nostri residenti ma anche i residenti di tutte le città e i paesi limitrofi, quindi parliamo da 15.000 a circa 100.000 persone con 500 ettari di pinetta che vengono utilizzati dalle persone, quindi ci vuole un maggior rispetto e un maggior controllo da parte di tutti. Certo. E questo è il senso. Allora, siccome il problema qual è? È che la gente molte volte quando vede le strade pulite se le prende con il comune, se la prende con il comune o con chi invece pulisce e fa il suo lavoro tutti i giorni. Allora bisognerebbe essere più critici e più attenti nei confronti di chi sporca, sì, non di chi pulisce. E allora, certo, questo è il senso della nostra azione. Abbiamo detto, però sì, tecnicamente bisogna trovare una formula. Non l'avete ancora trovata la formula, state riflettendo. No, questo qui ho detto che era un'idea a cui stavamo lavorando. Un whistleblowing dei rifiuti, diciamo così. Esatto, ma noi tra l'altro facciamo la sensibilizzazione costantemente. Le faccio un esempio proprio di questa mattina. Io mi sono recato a Sassari in auto con la mia auto, tra Sorso e Sassari, 10 chilometri, in una piazzola oltre il guardrail ho visto che c'era un materasso che ieri non c'era perché era stata pulita ieri la strada, la cunetta, un materasso e un boiler, non per l'acqua calda. Allora, è un po' tantino, in effetti è un po' tantino tutto sommato. No, ma le voglio dire che noi abbiamo un numero verde che con la ditta che fa la raccolta dei rifiuti, che viene a domicilio a ritirare questi ingombranti, sì, sia il boiler che il materasso, mentre invece uno rischia di caricarsi con fatica il materasso sulle spalle, portarlo in macchina, andare in una strada vicinale, rischiando di essere anche individuato e Ma perché la gente lo fa? Perché la gente lo fa, sindaco? Cioè, se è così facile, una cosa di abitudine, qual è il problema? Sicuramente c'è una percentuale, seppur minima, di gente che ha poco a cuore, diciamo, l'ambiente, che è incivile, questa è la realtà. E allora questi, secondo me, vanno combattuti da tutti, perché duramente. Non è che il lavoro che molti svolgono in maniera precisa, puntuale, può essere, ecco, rovinato da questi pochi. Ecco, in questo senso noi pensavamo anche questo come coinvolgimento ulteriore dei cittadini. Allora facciamo una cosa, sindaco, quando trovate il metodo tecnico, cioè la tecnicalità per dare questo premio a chi denuncia, a chi sporca, magari viene e ce lo riracconta, soprattutto quando avrete qualche risultato concreto. Grazie a Giuseppe Morgan, sindaco di Sorso, provincia di Sassari. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sui mercati, come sempre, e poi nella seconda parte della trasmissione, nel nostro giro per l'Italia, ci sposteremo invece a Pescara, dove c'è un signore anziano, disabile, che per tutta una serie di vicende burocratiche sono 4 anni che non riesce a mettere piede fuori di casa, fermo sul pianerottolo. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: tangente sugli appalti, tra cui la linea ferroviaria di Malpensa, tra il Terminal 1 e il Terminal 2 ci sono stati 14 arresti in Lombardia. Nel 5 Stelle il sindaco di Parma Pizzarotti lascia: non sono cambiato io ma il movimento, dice Grillo e Casaleggio oggi a Roma. Deboli consumi, propensione al risparmio in crescita, dice l'Istat. Referendum in Ungheria contro le quote migranti, niente quorum, mentre oggi a Lampedusa si ricordano le vittime del naufragio di 3 anni fa. Alla borsa. Fineco, la banca numero 1 in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Altra tappa per oggi del nostro giro per l'Italia è Pescara, dove abbiamo pescato una storia da Il Centro, uno dei quotidiani locali. Riguarda un uomo di 93 anni che si chiama Guglielmo Scartozzi, vive appunto in una via di Pescara e sono 4 anni che questo signore anziano non può muoversi di casa, solamente sul pianerottolo, perché è disabile, perché una vicenda burocratica lunghissima sta bloccando i lavori per fare l'ascensore. È una condizione, se vogliamo, esemplare, perché ce ne sono tanti come lui. Oggi abbiamo pescato questa, se ce lo volete segnalare, effettogiorno@radio24.it. Claudio Ferrante, buongiorno. Buongiorno. È presidente dell'associazione Carrozzine Determinate Abruzzo e che si sta battendo per questa vicenda, perché tra l'altro sullo stesso pianerottolo c'è anche una ragazza che ha anche lei dei problemi di deambulazione. Anche qua, insomma, 4 anni chiuso in casa questo signore. Esatto, è proprio così. Questo signore ha 93 anni e chiaramente qui si tratta di una vicenda che ha una circondata da una follia burocratica. Perché? Perché questo signore non chiede denaro alle istituzioni, anzi ha cacciato denaro insieme a condomini per installare un ascensore quando le sue condizioni di salute sono nettamente peggiorate. Succede che il Comune di Pescara dà l'autorizzazione e quindi riteneva, così come i Vigili del Fuoco avevano autorizzato, quindi tutto ok. Iniziano i lavori sono quasi terminati a causa di un esposto e sembra, anzi è proprio così, a causa della differenza di un solo centimetro, di un solo pianerotto della scala, il Comune di Pescara blocca i lavori e non si esprime, e attualmente praticamente al danno si è aggiunta la beffa. Cioè è tutto fermo per un centimetro di gradino? Esatto, un centimetro. centimetro che toglie la dignità, che viola i diritti umani di questo signore 93enne, ed è qualcosa di incredibile. Ma purtroppo, mentre andiamo in onda, abbiamo appreso proprio un'ora fa che al danno davvero si è aggiunta la beffa, perché questo signore questa mattina è stato rapinato, derubato da falsi dipendenti comunali che erano andati verificare se sì. avevano fatto finta cioè, di essere dipendenti per la questione dell'ascensore. Sì, diciamo anche che il fatto di pubblicare sui giornali l'indirizzo della persona forse non è stata una mossa efficacissima, diciamocelo sinceramente, guardi, Ferrante. Per quanto la cosa sia. Senta una cosa, ci dica questo, a parte che ci dispiace ovviamente per il signor Scartozzi, e questo è evidente. Al di là di questo, c'è una possibilità di sblocco di questa situazione oppure no? Voi ve ne state occupando, avete messo in mezzo degli avvocati, che cosa è successo? No, intanto ci siamo rivolti alle istituzioni, le responsabili di questa situazione. Scusi, un piccolo dettaglio, per quanto riguarda l'indicazione del numero civico della via, era necessario perché questa struttura, avendo proprio delle carenze strutturali, bisognava indicare in maniera molto chiara quale fosse la struttura, tant'è che il giornale aveva pubblicato anche il problema che poi si tratta quando poi abbiamo a che fare con persone vili, codardi. È chiaro che purtroppo a seguito di questa situazione naturalmente, mica è colpa, chiaro che non è colpa, però, che la colpa è semplicemente di chi compie la rapina, questo è evidente, insomma, però appunto magari un filo di precauzione in più. Comunque la storia l'abbiamo voluta raccontare, avete capito, per un centimetro questo signore sono 4 anni che sta chiuso dentro casa. Speriamo si risolva, grazie a Claudio Ferrante, presidente dell'associazione Carrozzine Determinate Abruzzo. Prima di dare la linea a Mario Platero, per poi ritrovarci per i saluti, una piccola risposta all'ascoltatore. Non abbiamo detto una falsità su Pizzarotti, ci dice sempre sui 5 Stelle, Pizzarotti è stato espulso mesi fa. No, non è stato espulso, è stato sospeso e adesso ha deciso di lasciare il Movimento 5 Stelle. Quindi non era stato espulso, ma sospeso. Da sospeso ha deciso di lasciare il Movimento 5 Stelle. Poi che le tensioni ci fossero tra Pizzarotti e i 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle non è notizia di oggi. Che fosse già sostanzialmente espulso non è notizia di oggi. Comunque, Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.